se andare a Bacchì, aspetta, Gianna di Brescia, tocca e fuggi a Bacchisio. Vai, Bacchì. Sì, Emanuele, no, me ne vado giù. Ci sono troppo il casino che sopra. Ci sono troppo. C'ho quel tracco. Bene, ragazzi, io vi saluto, vi auguro buon consiglio ancora. A risentirci domani, ma chi si ascolta fino a Lino se ne passa tutto in QRT. Bene, grazie delle quattro chiacchiere a tutti. Ciao ciao, Emanuele, riprendi. Eia, ciao Bacchì, buona continuazione serata, dai, ce la riascoltiamo domani. Vai, To. Sì, ok, ciao signor Bacchì, mi stia bene, a domani. Ok. Vai Luca. Ciao Bacchì, aspetti che stiamo portando la fene con le cipolle. Non te ne andare, aspetta. Ciao Bacchì, ciao Bocco Ritti, ci sentiamo. A domani. Sai che già si è arrabbiato. Ciao Bacchì, salutoni. Ui, aia. Vabbè, io sono ancora in ferie. Io da te. Le mie ferie durano un bel. Durano un bel, Tony, un bel, un bel. Allora sono ferie forzate. Peggio. Allù, sono ferie forzate. E ti ho risposto, ho detto peggio. Forzati io intendo dire quel senso lì, capito, già mi ha capito. Ehi, ehi, e ti dico peggio, peggio di essere... Il cazzo peggio, bobo. Tore sì che si ne affutti, tu sì che è inferio, va a te. Ehi, ma me l'ha giù fatti però. Mi toccani. Hai fatto la gavetta, dai. Ma se la fate nei altri. Fra poco tocca pure a me. E mi baso a vino. No dai, sono già stavo furicchiando Tony, dai. E se mi sto confermo si confuntito. Meno male, dai, che so fare quello che so fare. E grazie a Dio già qualcosina. Già so con piccoli tendi, dai. Meglio piccoli tendi che a metà, così dizzini. E io troppo bene vado anche in pensione, dai. E se la biglia luce tutti i canti. E vabbè, anche io vado in pensione. Di gomma però. Tu sei giovane ancora, Luca, e che ti dà? Magari, mi sono giovane, se no la prossima volta sei abito. Non metto in dubbio. Quanto ne vai? Se Dio vuole, 46 a dicembre. Se Dio vuole, se non vuole, per giù baetto. Io questo mese sono 66, nuda so, E cosa puoi dire, ma non fuma? Prevado, in pensione di vecchiaia, 67 anni, con 41 anni di contributi. Io penso che basta, Andava bene, te li travagliati e ti spero, normale, no? E continui non nasci, forse nasci un anno, io... vabbè. E tu, Manuè, pensione, canto? Magari, io contributi ne ho 15-16 anni ne ho di contributi. Venivo lì altre 15-20, 20 anni ne devo fare. Pensa un po', fino adesso la minima ci sei arrivata allora. Tuttora sei già in pensione. Tore, in pensione sì. Già 4 anni. A gennaio faccio 5 anni. E non si può piacere. E 2 anni in più. Io ho lavorato un bel po' in nero pure, per capare la famiglia, giustamente, pagarmi il mutuo, e me la sono lavorato lo stesso, cosa facevo? Non lavoravo. Cosa dicevo? Non mi assicuri, non ci lavoro. No, io ho lavorato lo stesso, sono andato avanti. E vabbè. La mia vecchiaia me ne vado a 67 anni, e 41 anni, già non so pochi, dai. Infatti, non so pochi, no. Purtroppo, se quando c'è lavoro e cose, non si è assicurato, pazienza, vuol dire che continui. Una cosa sono di sicuro, che in pensione prenderò un me, perché mi incollano anche la pensione che sto prendendo attualmente. Di validità, quindi. Guarda, io me ne sono fatto 42 anni e 7 mesi. E poi mi sono fatto le ferie. Come ho finito le ferie mi sono andato in pensione. Io faccio così, fatto l'altro anno. Agosto mi prendo le ferie e vado in pensione direttamente. Tanto che un bei colleghi, inviti a cena, inviti qua, inviti là, sì. Tutti quanti da Gianni e Gianni Magni. Beata a voi, cosa rete, siete muti. Sono una negana di papi da stagirano, bisogna tirare le cura a pinza. No. Allora, beati voi pensionati. Andemmo. Beati noi. una schiena ce l'abbiamo rotta, mio Luca, e quindi abbiamo anche il diritto di riposarci un po'. Allora, che è Claudio, ho visto, lo sa Luca. Claudio era. E Claudio, non è più il Matteo Buretto, ma... Fate aggiunto, beato a voi. Buonasera, buonasera. Ciao Claudio, senti, anche lui non è pensione. E allora? Eia, eia. Dal 2017. Vabbè, cazzo, cosa volete? Lo morbo l'Alzheimer. E sei cracchi a che c'ha il microfono. Boh. Ma non è, comunque quest'antenna però quando schiaccia lo Smith va a fondo scala. Boh. Cos'è, Tony? Con questo, quando schiaccio il microfono, e lo Smith va a fondo scala. Prima non ci andavo con la trantenna. Ma con quanti watt stai uscendo di radio? Cosa ne so? Al massimo è. Se a fondo scala qua, è al massimo sì. Vabbè, ma quell'antenna a Tony c'ha i radiali e c'ha un piano di massa, l'altra è la base magnetica, non è che potevi pretendere molto, Quindi è normale. Sicuro. Ho detto, è normale che va a fondo scala. E ti ho detto sicuro. Perché? Va bene, l'altra mia saliva a metà, lo splitter. Infatti non c'è la stazionaria, boh, non penso. No, beh, questa c'ha i radiali, c'ha un altro sistema, capito? Quindi ti dà... Se sei anche più forte, vuol dire che sta andando bene, no? Capo. Andrà via. Non te l'abbia avviso, barone. Mi ha detto subito, mi ha avviso. Cingomone. Ok, boh, io non lo so, come vuoi pure abbastanza, ma lì su è così forte. No, già siete lì tutte e due. Ne ho fatto altre due di antenne per la macchina, Tony, non ti preoccupare. Già ne abbiamo antenne. Va bene. Gioia. Vabbè, io lo lascio così, comunque adesso già va bene. Tore, riprendi. Sì, me la riprendo. E ma via, Buru, che mi stanno chiamando. Dai, ci sentiamo domani se tutto va bene. Ok, ciao Claudio, ciao Luca, ciao Manuele, ciao Tonino. State per... Ok, ciao. Ciao Toshime. Ok, ciao Tore, buon coltivo, carica, ci sentiamo. Avanti, Manuele. Ciao a te, buona continuazione, dai, a domani. Dai, Claudio. Ciao Ciotto, ci sentiamo domani, già siamo sempre qua. E tu che fine hai fatto, Tony? Tutta la dice, senti in diti bannuta. Sì, tutto il giorno, aspetta, saluta Luca, davanti Luca. Luca, ci sì. Vabbè. Tra una cosa e l'altra, insomma, più di paramai, insomma. Non è che io sono un tipo molto amatore a accendere. Poi accendo qualche volta, non c'è nessuno, spiego tutto e mi si gocco. E che tu pensi che sto chiatto interaienti? Io, verso le 5 ho acceso, 5 e mezza, e c'era Manuele, anzi, veramente non è il canale 10, l'ho fatto spostare qua e sono sempre qua. Capito? Canale 10, la radio è accesa, 4.30 e 4.40, però sono a volume zero. Sono qua. Già, per fare due chiacchiere va bene anche qua, non agita in mezzo al QRM. Io stesso ho acceso un attimino, qualche secondo, ma guarda sia uno che l'altro, niente. Non lo sento nessuno, aspetto tutto a mezzogiorno dalla sabata, mi sono fatto il pisolino. Io lo stesso, alle 2:30, dopo che è uscita mia figlia, ero nel divano a guardare la televisione, mi sono uscita dove erano i 4, quindi non c'è problema. Poi ho sentito sul 10 che c'erano controlli e controllini, ho abbassato il volume e mi sono spostato qua con Manuele. Manuele già l'ho visto io, a Cigommino. Chiamato anche le tavolette. Sì, ma non avete gana, va a vedere la gira. Io sto solo parlando, e Manuele che... Manuele! Come ti posso far vedere? Se ti fa vedere una lavucca, come ti posso far vedere pure io? Ma se parla Claudio, poi parlo io. Parla che tu, invece tu dai zitti, mi sono rilanciati, mi sono chiamati ma non, Manuele, riprendi? Torino. Non so di altro, anche io devo alzarmi, è giunto. Aspetta volete, fatevi. Torino. Poi. C'è qualcuno che ti chiama, ha detto se lo ascolti, chi è, avanti? Ciao, Antonello, stavo facendo la prova col portante. Chi sei tu, io mi ascolta. Non so se ti sente Tonino, qua si affondo scala. Tonino, senti Antonello? No, negativo, io non lo sento nessuno. Dove sei Antonello, il fornitore? Antonello. Antonello, dove sei il fornitore? Ehi, adesso l'ho sentito. Ha detto che era il fornitore. Ma è macchina. Cosa dici? In birrendi? Sì, Antonello, no, è tranquillo. In pellicendi, se. Ho parlato Giovanna, sotto sotto. Ciao Giovanna, hai detto bene, ancora, per il momento è tranquillo. No, adesso mi sta veramente facendo incavolare il fratello. Perché se ne ha preso un'altra bottiglia, no? No, mi ha messo l'antenna sotto la bottiglia della macchina. Io non lo sento. Vai, la Va bene, io te lo sento. Si tira il culo l'antenna. Sì, alle fornite. Sono portatile, Claudio. Vabbè, qua è attaccato a me, quindi a fondo scala. Le tavolette, che tavolette devi fare? Manuel, non ho già compreso, che tavolette da mandato? Devo aumentare il mobiletto che le ho fatto, sempre in vintenni, ma te la dimo da prima. Ho capito, cioè deve farlo lui il mobiletto, così hai detto. No, Claudio, mi ha dato altre tavolette, altre due pezzi di legno, per aumentare il mobiletto che le ho fatto io. Aumentarlo, fate un altro piano. Cazzo, prima non lo potevi fare. Ora che è finito devi dover smontare tutto. No, te lo costruisco qua e poi vado a lui e glielo attacco. E come glielo fai? Ma sopraelevato, praticamente da appoggiare sopra. Eia, giusto. Aspetta, Antone, cosa hai detto, Tony? Ho detto, sì, in effetti così. Glielo costruisco qua, vado là e glielo attacco. 8-10 vite sono a posto. Va bene, va bene. Avanti, Antonè. Con la magnetica l'ho sentato Lino, ha lanciato la macchina. E con l'altro, con il combino sì. Aspetta un attimo che abbiamo portato la vera, un attimo. Prova a cambiare, già siamo qua. Avanti, Emanuele. Ehi, adesso l'ho sentito. Ma cos'è combinendi? Ma a casa sua è? No, è al rifornitore. Col peroncino in mano. Beh, adesso l'ho sentito quando stava dicendo che attacca l'altro portatile. Io adesso non l'ho sentito, prima si sentivo. Beh, poi tu lo sentivi io no, vedo come si sposta. Così Antonè? Aspetta, avevo portato in 2 minuti. Sì, la sono qua. Ma dov'è, Ocla? Al rifornitore in via Carlo Felice. Ma al bar? Allora andi in farmacia. Ma cos'è, come portate la presso? Sempre se lo porta Antonello, anche quando vale lo spin. Seriato. Ci vuole camminare in mezzo a carriera con lo portatile, non l'hai mai visto. Ma rimasto Giovanni Napoli che andava a vigilia urbano, stasera sempre va a vedere la radio, oppure manco una contravenzione. Se l'hai mandato 10 anni prima in pensione, chi non ha mai consumato lo blocchetto. Cazzo, io lo credo, a chi era sempre impegnato. Sempre va vedendo la radio, era con Cosciga, cazzo. Sempre va vedendo la radio, dove sei, con chi sei, 6x6, 36. Vai, Tony. Bobo. Adesso mi sa che mi preparo qualcosa a mandigare, perché anche oggi bisogna mangiare. Tony mi ha fatto un'insalatona come quella che conosci tu, me. Pomodori, cetrioli, etriche e ballacche, stanotte. Mi mangio una bella insalata perché a pranzo ho mangiato ceci e sciogo tutta la via dove basta. Allora, partirà anche il paggio di druidi. Ehi, a chi è? Davide, tu sei? No, un tuo omonimo. Sì, Claudione. Claudio so. E adesso ti ho capito che sei tu, Cla. Ehi, già ci passo, già ci passo. Dobbiamo fare quel lavoro là, sto aspettando che mi entri un po' di denaro. Ok. Ciao caro. Ciao bello, carissimo. Capito hai? Cosa hai detto, Tony? Allora cosa? Allora cosa mi hai detto un po' di cicci? Faccio un dondo già, ma sei sicuro che faccio i druti? No, ma non è un'aria, mi fa proprio perché io c'ho un po' di colite, siccome mia figlia le deve mangiare i legumi, no? La settimana scorsa facciamo una volta alla settimana, abbiamo fatto le lenticchie, settimana ancora i fagioli, ma fatti bene, mia moglie l'ha fatta con la pentola a pressione, ci ha messo la salsiccia, salsiccione dentro, quindi abbiamo fatto prima e secondo. Cipolla che poi l'ho tolta intera, l'ho spaccata, l'ho fatta con un po' di olio crudo. No, a me piacciono queste cose. Però avendo un po' di di colite. Cazzo, mi fa sempre male la bocca e lo stomaco, capito? Non mi fa fare aria assolutamente, è proprio un problema di legumi che non ne posso mangiare, però purtroppo quando li fanno li mangio perché mi piacciono. No, io già li mangio, non mi fanno niente. Beh, la colite si sa che ti crepa è mangiando l'aglio, latticini, formaggi, quello è. Io prima un po' lo soffrivo, adesso non lo so perché, ma non lo soffro più, meglio così. Perché il formaggio lo mangio, grazie a Dio, e i latticini l'altro lo sto bevendo, praticamente scremato, la mattina, boh. Comunque sì, anche io ho la tonna, non c'ho adesso la cimetta, ma c'ho il tonno, metto il tonno. Sì, anch'io. No, cimetta non ne ho messo. Ce l'ho ma non ne ho messo. Ci ho messo una bella scatoletta di tonno, una mozzarella dentro, bella fresca, mi mangio quella stanotte. Bevo un bicchiere di vino rosso, giusto così per la circolazione del sangue. E poi mi abbaido cosa? Cazzo, mi da vina giovata. Tocca a me darmi grande fratello e saluti. A chi sono baraguro di signorini mi devo sopportare, cazzo. Beh. Grande fratello. Sì, oggi dice Emanuele, no a me non me ne frega niente, io cambio canale. Me ne vado a canale 8, canale 9, oppure vado 34, vediamo cosa c'è di film, oppure vado 52 di Max. Quello che c'è, però non abbaido grande fratello. Ma li vedi tutti, no? Matto lì, tutto funziona. Sì, grazie a me. C'è il problema, sei un grande amico, capito? Con la G maiuscola, la massa te ne vai, è tutto in corto, grazie. Io pazienza è poca, vista è poca, e quindi... compreso, Emanuele. Quasi quasi ci fate abbonire l'antenna nuova da Vittorio, grazie. Sai dove lo goce staccato? Ma tu ne l'hai già compreso, basare tu, sì. A che vuole l'antenna nuova dal padrone? Ascolta, quella parabola che c'hai dove c'è l'antenna TV, quella se vuoi te la sistemo, me. Capito? Mettiamo l'occhiello nuovo, il cavo con l'adattatore l'attacchiamo a quella televisione e vedi Romondo, cosa c'è di Romondo? Tutto ti faccio vedere, tutti i programmi, francesi, inglesi, tedeschi, tutto. Ma Claudio, io ho anche, non so, ve l'ho messo l'illuminatore, ma ho anche un ricevitore satellitare, tra l'altro, dello Sky, qua. Bisogna che mi fai vedere un po' di quelle cose e te le colleghiamo, perché quella parabola è nuova, è ruggita ma è nuova, è funzionante al 100%, l'ho già dato un'occhiata, capito? C'è da cambiare l'occhiellino, lì, mettere il cavo, farlo entrare dentro e tu sei a posto. Ci mette la T e ci mette l'antenna normale e più la parabola attaccata. E vedi il mondo, ce l'ho io così. Cappa. E io c'ho quel ricevitore satellitare dello Sky. Quello fatto tipo a onda del mare, ma bello me. Quello onda del mare? Io ve la già colla di Gabbiano. Va bene, già funziona. Antone, a fumo dice Varado. No, mi sono spostato di mezzo metro e guarda se mi sento. Sì, Antonella, adesso ti sento. Prima, ripeto, non ti spostavi, non ti sentivo. Neanche i due metri. La macchina è già vanno all'altra. Quindi adesso va bene, no? Ok, ti ringrazio, ci siamo tra poco, là. Sì, d'accordo, Antonella. Avanti, Manuè. Adesso già la sento anche io. Già la sento anche io adesso. Non so se senta me Antonello. La gente che ha impegnato pure a dazza. E la si consuma. No, come pure impegnato. No, ma che? Non lo disturbate, già che si buono portate la dritta a dazza. Ma in di buono tutto il suo liquido. Boh. Sì, Giannati, cavamo. Buonasera a tutti. Chi è? Ehi, va. Questo è Davide, ne buone. Vabbè, Antonio Bombolo, Ci vai Bombolo, Non ho capito chi è. Tu sei Anto. Ehi, Antonio sono, buonasera. Ciao, buonasera anche a te. Lo senti, Tony? Questo sì che lo sentiamo. Ciao, Antonio. Un po' basso, però lo ricevo. Ehi, cappa, è mio Sogu a livello di capiciuri, a me. Però, già fa. O sei con l'antennino? Con l'antennino sono, te, avevamo gioco buccio in un'altra gubbiciuria, com'è? Sembra lo stesso, signore, più ma già ti sento, dai. Andrà bene, avanti, ma lo senti? Che io già lo sento, ho detto a te di accendere i preampi. Di accendere i preampi? Ehi, i preampi l'antenna. Non ce l'ho io per questo qua. Prima o poi me la metterò. A Torino sto dicendo. Ma se vuoi con i preampi no, che poi non ci insegna, Omanuè. Ok, dimmi lo du. Ha detto a sentire un preamplificatore d'antenna, ma non un preampli, un preamplificatore d'antenna, così ne intende meglio. Perché io ce l'ho qua, Manuè. Ci dovrebbe essere, guarda. Ma dovrei leggere le istruzioni, non la giugana. Il pulsante, guarda, c'è scritto PR, PR. PR? Allora, FM... Exit Cal VM, non ne ho. Boh, pare strano a me. E che 90, se no vi appunto che sia della 27. Ma se vi sentite, ma cosa dovete buoni? Ma cosa dovete buoni? Lasciate stare tutto com'è. Ma noi non tutti i modelli ce l'hanno. Evidentemente il modello che c'ha lui non ce l'ha. Guarda io, Anto, con l'antenna di gomma arrivo da tutte le parti. Sì, già ti sento forte qua già. Lo credo, un 50 watt l'antenna nata la gabbetturia. E a me come mi ascolti, Antonio? Aspetta che avete parlato in due. Vai, Tony. Antonio, a me come mi ascolti? Perfettamente bene. Io ho l'antenna col palo. Un antennino piccolino per questa frequenza, boh. Poi dici amplificatore. Ma questo ciccio piccolino non ce l'ha amplificatore, Manuel. Quando vieni qua lo vedi se ce l'ho. Se voglio me lo pongo pure io, me, antennina, non c'è problema. Non c'è un baggiarucco, eh? Io non ne ho posto per mettere antenne. La giù antenna da 7 metri. No, questa è la radio grande, sono a potenza minima. Se no posso arrivare anche sino a 100 watt, non c'è nessun problema. Ma basta che vi sento tutti e mi sentite, già va bene così. Tony, quella non è un'antennina, quella è una Grand Plain UHF, un quarto d'onda, capito? Non è un'antennina. Vabbè, piccolina a confronto della Grand Plain normale, dai. Comunque, in queste qua le vendono anche mezz'onda, giusto? Certo che sì. Vabbè, ricordati che le antenne UHF non sono grandi, capito? Sono così, quella è la sua misura. Non possono essere più grandi. Quelle più grandi sono i VHF, capito? Quelle in U sono così piccole, però quella è una Grand Plain, un quarto d'onda e va benissimo, monobanda UHF, va benissimo alla grande. Cappa, infatti ho tolto tu la baradà che avevo fatto, ho messo soltanto adesso c'è una telebaracchino e poi c'ho indipendentemente da quell'angolo, ho messo quella Grand Plain, ho tolto la piastra in metallo e l'antenna che mi avevi dato tu con la base magnetica e ho messo quello armato manuale, la mini Grand Prix. No, ce l'ho bene così, dai. Alla grande, se ti procuri una radio un po' più seria di quella arrivi molto meglio, però arrivi benissimo. E quella lì te la sfrutti in macchina, quando fai viaggi, quando ti sposti, vai a mangiarti un gelato a Platamona, eccetera, te la metti e la usi così, capito? Ma non sto usando il Baufem per me, o Claudio. E cosa ce la attendi? KT 8900D. KT, quello della Intec. Cosa ne so? Ma non è della Intec. DVT, dove è scritto il microfono. Ah, tutti i numeri, posso comandare dal microfono pure. Ma non è un veicolare, cos'è Emanuele? Non ho capito. È un veicolare, ok, per quello che gli ho detto, accende il preampli, perché sicuramente ce l'avrà di sicuro. Oh Claudio, se no 8-10 cm, non di più, minore. Ma qual è quello che dovevi prendere da quella persona là? L'hai preso? Cappa, sto usando quello. Cazzo di abbaghi, ci denti di un bel più forte. Arrivi un bel forte adesso. Piccolino, poi più là prenderò uno più serio, dai. No, è piccolino, lo già piccolino. E quello c'ha un sacco di vattime. Quanti vattime? Cosa c'è scritto? Love, mid, HI, cosa c'è scritto? Che potenza stai usando? Non lo so, nome che tu, Exit, HO, FM, Moni, V sbarra M calmo. Ah, è già tre potenze quella radio. Ma qual è quella colore piccolina? Sono scritte un quadratino celeste e quando modulo si accende le, dove sto modulando il rosso e lo splitter è verde. Sì, quella c'ha tre potenze, c'ha love, mid e HI. La devi mettere in HI. E come la metto? Dove vado? Su cal. Power da qualche parte, power, c'è scritto. Potenza, power. Tony? Che si va a sentire così, Ocla? Sì, ma lo conosco, è uguale a quello che c'è a Natalino. C'è scritto FM, poi, Moni, Mu, e c'è due tasti a destra. A sinistra c'è V sbarra M, poi c'è Cal e poi c'è Exit HCD. HCD. Sì, vabbè, quando lo vengo io ya, te lo dico in via la potenza, non ti preoccupare. Sto vedendo c'è cosa, poi è scritto in cinese e in inglese, non si comprende nulla, ma boh. Ma perché non avevi detto a Gian Maria ieri? Cosa? Ma che non avevi detto a Gian Maria? Beh? Sì, dove l'hai riuscita e vatti? Boh. E qualche giorno che capita vicino a Gian Maria, ma che lui lì ce l'ha uguale, quindi dico cosa bisogna fare per aumentare la potenza, se ce l'ha o meno, boh. Già ce l'ha, che ce l'aveva anche Natalino, quella lì è molto bella, già ce l'ha. Quello lì fa anche da doppio ascolto, Ocla. C'ha, ogni tanto c'è anche la ventolina che c'ha pure dietro. Quadrante grande. Mandami la foto, Tony, che te lo dico io dov'è il power. Beh. La foto del frontalino mandami, accesami, noi tu vada. Già, aspetta che le faccio la foto e te la mando. Eia, vai Anto. Antonio è parito. Ehi, scusate, stavo facendo una cosa, stavo provando una cosa che non è andata bene. Cosa si è bruvendo, Antu? Ho bruvendo a vedere se andava con l'antenna di baracchino, invece non anda. Ma noi ti si agganzendi, no, Antu? Salute ti vuoi agganzare, ma non è ora. Dimmi di agganzare. Lo sai, la notte quelle cose si fanno, non di giorno. Una cosa canzendi, io stavo approcciando un attacco, c'avevo, stavo provando a tenere il baracchino dove si andava, ma non ci va per da stazionario, non anda così. Claudio, te l'ho inviata. Ehi, no, pensavo che stavi facendo capito la monello. Aspetta che guardo la foto, che c'ho il telefono in bagno. L'ho lasciato lì per panciuria un po'. Da monello gnadi. Ma che è? E vai? Signora Longari, signora Longari. Ioi. Allora, tu? Dimmi. Sempre lì, sì. Sai, costa Trinità. Ehi, sempre lì sono. Anche tu, ma muovendi, dici? Commenti? Sì, ti sei muovendi. Cosa mi devo muovere? Perché c'è il segnale oscillante. Ascolto lì, ma dove stai trasmettendo? In che frequenza stai trasmettendo? Cos'è il tuo display? Sopra i nocchi, mi. A rube. Un poco sopra i nocchi sono più forti. Però magari intendo i gatti nostri. Sono con una tracabicciuria. Cos'è Claudio? Ho detto, dove stai trasmettendo? Dove c'è la freccetta? Quello lì. Certo. 446081. Tutti i frequenze cosa c'ho? Non ci viene a nuda. So, è così me l'ha dato lui, boh. Vabbè, quella può cancellare, ok. Ah, va resettata, va, te le do io le frequenze per ascoltare cosa scegli, no? Noi ascoltiamo adesso, adesso verrete le frequenze. Allora, dove c'è scritto sotto, a sinistra, dove c'è il pomellino per cambiare i canali, lì c'è scritto bim bum bam. Schiaccia quello a vedere. Pomellino di destra. A sinistra, ma c'è il pomellino per cambiare canale, cos'è? C'è scritto exit lì, quello lì. No, quello lì. Quel tantino là in basso, giù, quello lì schiaccio. Prova a schiacciare quello lì se ti appare qualcosa nel display. Vabbè, cosa ti appare? Ma che mi ha dato giù di frequenza e l'ho riportato di nuovo qua. Allora quello lì è per salire, la freccia ti fa salire. La freccia fa scendere e poi risale di nuovo dall'inizio alla fine. No, vabbè, lascialo stare così, non toccare niente. E qua quello che c'è al centro cos'è, quello piccolino? In mezzo, tra V/M e Exit, cos'è quello? Non è al centro c'è Caro, quello piccolino. Quello giù è Exit, boh, non lo so, prova a schiacciarlo. No? Si è pronto a schiacciare quello lì, dove c'è scritto Exit 1000, cos'è? Quello lì ho schiacciato, mi va giù di frequenza, la freccia scende, poi risale e poi riscende. No, allora non c'entra niente. E invece quello piccolino che cos'è? Dove c'è scritto Cal, prova a schiacciare quello. Non è successo niente. Nulla. Vabbè, quando dai, vengo, quando sono lì lo vediamo assieme, dai. Comunque c'era, mi ricordo che c'era la potenza. Se bisogna entrare nel Meru, là, boh, non lo so. Quello lì c'ha 50 watt di uscita, Ocla. E lì avete validato in 4, cos'hai detto Manuel? C'ha 50 watt di uscita. Infatti, sicuramente a minima potenza. Ocla. Ehi, Alu. Ho capito, ora che mi sta spegnendo, se spegne si riaccende da sola, boh. E ci avrei, t'avrei toccato il temporizzatore. Il temporizzatore, quello che fa, che si accende e si spegne da sola. Ma ci sono nuda io. Come fa a spegnersi allora? Ah, cosa mi sogo, boh, stava caricando, adesso non si sta spegnendo, ma la batteria me la segnava al massimo. Sì, no, è nuda tu, qualche falso contatto, non è niente. Comunque, Tony, sicuramente te l'ha dato a bassa potenza, capito? Perché la conosco quella radio, ce l'aveva anche Natalina, molto bella. È molto bella, c'ha 50 watt quella radio. Sì, vabbè, ma io non ci capisco un piffero, è un casino. Quando capita che vieni qua, lo vedi tu. Sì, vabbè, io mi arrangio io, non ti preoccupare. E l'avevamo uscita a manetta. Staccata l'alimentatore? Sì. Oh, io me l'ho tolto a mangiare, c'ho fame. Sono già alle 8:20. Ok, buon proseguo, state bene, se più tardi ci sente, ci sentiamo, se no dove volete, 27 qua, boh. Ok, ciao Luca, ciao Claudio, ciao Manuele e ciao Antonio, se ancora in ascolto, ok? Buon proseguo, ciao a tutti. Ciao Tony, buona serata, buon tutto, dai, ciao, vi ascoltiamo più tardi. Ciao Tony, dai, anche io vado a cenare, se ne ho voglia. Se non c'è niente alla TV, noi ci facciamo due chiacchiere sul 23, dai, se no pazienza, ok? Ciao Antonio, Manuele, Tonino e compagni, ciao! Ciao Cla, anche a te, dai, buona continuazione anche a te, dai, se in caso è, ci sentiamo più tardi. Ciao anche a Antonio, dai. Ciao a tutti. Ehi, aspetta, acceso anche questo, a dopo, ciao. Claudio, ciao a tutti! Ciao, ciao Anto! Alle prossime. Ciao ciao, comunque c'è un'altra cosa qua, avendo l'antenna giusta sarebbe una telefonata. Ok, ciao ciao. Organizzati, perché noi siamo qua a 27 e non v'è mai nessuno, almeno qua c'è gente, ciao. Vabbè, se non si crea nessuno, vabbè dai, già lo so io. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Non va bene la faccia tua. Va bene Antonio, grazie. Grazie, ci auguro per la casa, là. Eia, saluto a tutti, ciao. Eia, ti saluto anche a Claudio. E a Genoveffo. Ehi, non fate la monilli, ciao. Eia, ciao. Già non mi ubriaco, non ti preoccupare. Sono uscito in incognito, se no mi ammazza. Gappa, a frappè. Eia.